pianto di Giovanni Pascoli. Più bello il fiore, qui la pioggia estiva lascia una stilla dove il sol si frange. Più bello il bacio che d'un raggio avviva, occhio che piange. Di Giovanni Pascoli, pianto, pubblico dominio, voce di Annibale Covini Gerolamo, Creative Commons 4.0 International, BYNCND.